giorno non mi amassi più. Mi son mai chiesto che farei, il mondo ancora affronterei con la stessa forza dentro. Come farò fino a quando potrò contare su di te? Se un giorno non mi amassi più, mi son mai chiesto che direi a chi mi chiedesse come mai. Mi salverei dicendo che sono stato io a volerlo, o in fondo poi lo ammetterei. Lo ammetterei. Poi ti guardo e stai ridendo, sul mio dramma stai scherzando. Proprio vero non ha senso, visto che mi sei accanto. Hai ragione, se ci penso, far l'amore è molto meglio davvero. Ma se un giorno non mi amassi più, non sarà uno scherzo come ora. E pensarci adesso che sei qui, sì lo so che non ha senso, ma tutto quello che io sento, a chi lo devo dire se non a te? Se non a te. Poi ti guardo e stai ridendo, sul mio dramma stai scherzando. È proprio vero non ha senso, visto che mi sei accanto. Hai ragione, se ci penso, far l'amore è molto meglio davvero. Un giorno non mi amassi più, mi son mai chiesto che farei, il mondo ancora affronterei con la stessa forza dentro. Come farò fino a quando potrò contare su di te? Se un giorno non mi amassi più, non ho mai chiesto che direi a chi mi chiedesse come mai. Mi salverei dicendo che sono stato io a volerlo, o in fondo poi lo ammetterei.